Noi abbiamo lanciato questo appello ormai un anno fa, quando abbiamo registrato in Italia una serie di rigurgiti di carattere fascista, di carattere razzista, di carattere omofobo, antisemita, delle reazioni negative, preoccupanti, che purtroppo non solo sono nel nostro paese, ma che si stanno manifestando in tanti paesi europei. E rispetto a questo scenario abbiamo anche individuato dei movimenti che specificamente si richiamano al fascismo. Penso a Forza Nuova, a Casa Pound, a Legalità Azione, ad altri movimenti, cosa che è vietata dalla Costituzione italiana, che è nata appunto dalla sconfitta del fascismo. E abbiamo concordato con altre 22 associazioni, partiti democratici, sindacati, associazioni culturali, movimenti, di lanciare una raccolta di firme per mettere fuori legge coloro che vogliono ricostruire il partito fascista in Italia e al tempo stesso per denunciare il razzismo che emerge, per contrastarlo e per costruire una mobilitazione contro questo. Abbiamo raccolto attorno alle 300.000 firme e di queste firme ieri abbiamo portato un primo lotto al Presidente della Repubblica, che vogliamo che le istituzioni facciano la loro parte, mentre non sempre queste lo fanno. Ecco, appunto, voi nell'appello citate, appunto, chiedete l'applicazione integrale delle leggi Scelba e Mancino, che dite puniscono ogni forma di fascismo e di razzismo. Quindi volevo chiederle anche, diciamo, in questo senso, come è stata raccolta intanto la proposta che avete portato al Presidente, come sono state accolte le firme, ma anche una valutazione, diciamo, della situazione politica attuale in Italia, sia delle formazioni neofasciste, ma anche, diciamo, nella sua veste istituzionale attualmente al governo. Ma noi innanzitutto apprezziamo il fatto che il Presidente Mattarella ci abbia voluto ricevere e abbia voluto accettare la consegna di questo primo lotto di firme. E abbiamo denunciato che troppe istituzioni democratiche non fanno la loro parte, a partire da diversi questori, da tanti prefetti, da tanti sindaci. Siamo di fronte a delle sentenze anche di alcuni magistrati piuttosto bizzarre, che negano o minimizzano fenomeni di rigurgito fascista espliciti. E abbiamo queste associazioni fasciste che si muovono con determinazione, che appaiono qua e là nei quartieri, nei territori, nei comuni, perché si sentono coperti da un clima generale. Basta sentire cosa dice il ministro degli interni quasi quotidianamente, ma anche tante altre forze in Europa che sollevano la testa e che in una crisi economica lunga dalla quale si sente uscire dopo queste scoppiate nel 2007, questi traggono brodo di cultura. La Costituzione italiana vieta la ricostruzione del partito fascista. Tutte le autorità hanno giurato sulla Costituzione e hanno il dovere di esserle fedele e perciò di essere rigorose. Purtroppo questo non sempre avviene, in questo senso va la nostra denuncia. Ecco, sempre restando in tema di clima politico, diciamo che appunto non è solo italiano, però anche in Italia sono successe molte cose da un anno fa, quando diceva avete iniziato a raccogliere le firme. Penso da ultimo al caso di Verona, per esempio, in cui si è vista una fronte istituzionale, diciamo, collaborare con quelle che sono alcune frange neofasciste, come può essere Forza Nuova, ma non solo quello. Penso anche alla citazione implicita che ha fatto per esempio il ministro degli interni quest'estate proprio di Mussolini, quando ha detto tanti nemici tanto onore. Insomma, quanto sta cambiando il clima politico in Italia ad oggi? Il clima politico sta cambiando in maniera preoccupante, anche se dobbiamo essere attenti a usare correttamente le parole. Io non penso che stia tornando il fascismo, penso che però ci sono dei rigurgiti, dei segnali che, se non stiamo attenti, possono creare le basi per avventure pericolose. Il fascismo è stata un'esperienza totalitaria insieme al nazismo, che ha portato al mondo la guerra mondiale terribile, che ha portato al mondo 55 milioni di morti. Sono stati sconfitti nella primavera del 45 e sono in campo grandi forze per contrastarle. E che in Italia è vero che ci sono tante provocazioni, ma ci sono anche tante risposte degli antifascisti, tante belle manifestazioni, tante iniziative. Basta vedere quanto è successo a Milano il 2 marzo quest'anno, quando 250.000 persone, accogliendo l'appello del sindaco, dell'ANPI, di alcune strutture, sono scese in piazza. Basta vedere le tante reazioni che vi sono, che dicono che il sentimento antifascista è profondamente radicato nel popolo italiano, ma anche in Europa. Il fatto che il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo abbiano cominciato a tirare le orecchie a Orban e abbiano votato un documento sulle radici antifasciste dell'Europa ci pare un segnale importante, dopo che si sono persi decenni a discutere delle radici cristiane dell'Europa, una formula che non è mai stata approvata. Perciò la battaglia è aperta e le forze antifasciste in campo sono numerose. Devono però essere convinte di una battaglia politica più intensa. Devono essere convinti che questi fenomeni non passeranno molto in fretta, perciò sarà una battaglia intensa ma di lunga durata. E insomma, queste realtà antifasciste saranno anche in piazza, in festa tra pochissimo, il 25 aprile, anche in questo senso, con qualche novità forse, nel senso, proprio in quest'ottica mi chiedevo, secondo lei intanto come va risignificato, come va attraversato questo 25 aprile di quest'anno, vedendo anche questi cambiamenti nella politica interna ma anche internazionale ed europea. Il 25 aprile è la festa della liberazione, per ricordare alle attuali e alle future generazioni quanto è stato pesante la dittatura in Italia e quanti sforzi generosi sono stati fatti, quanti sacrifici sono stati fatti per riconquistare libertà e democrazia e per ridare a questo paese il suo onore. Noi facciamo un 25 aprile per respingere tutti questi rigurgiti che vi sono e per riproporre la memoria di coloro che hanno fatto la resistenza, il valore di quella Costituzione repubblicana che affonda nella resistenza delle sue radici. Una bella Costituzione che va difesa, ma che va soprattutto attuata, perché tante parti della Costituzione non sono applicate, a partire da quanto prevede l'articolo 3, un impegno della Repubblica per l'eguaglianza vera, profonda, di tutti i cittadini sul piano politico, religioso, ma anche economico e sociale. Da questo punto di vista c'è ancora molto e molto da fare e il 25 aprile deve ricordare anche questo.